Noi torniamo a ribadire che la nostra richiesta è quella di semplificare il compito di chi deve assumere, non complicare la vita a chi deve fare le assunzioni. Se vogliamo più occupazione, non possiamo complicare l'opera di chi l'occupazione la fa e la produce facendo appunto nuove assunzioni. Da questo punto di vista noi stiamo ragionando su come migliorare le procedure per assumere nell'ambito del disegno di legge di riforma del mercato del lavoro che è al Senato. L'altra questione, basta tasse, perché la prima misura per sostenere la crescita è non aumentare le tasse. L'altra questione che noi poniamo è quella delle partite IVA, che non possono essere viste con il sospetto di fraudolenza, come se ogni partita IVA fosse un meccanismo elusivo di un'assunzione a tempo indeterminato. Noi dobbiamo tutelare questo pezzo di Italia che ci rende più grandi e più vincenti nel mondo. È un pezzo di Italia che sta affrontando con successo la competizione mondiale. La media dell'export del comparto del mobile è di circa il 38%. Alcuni degli imprenditori cui stendo visitato in queste ore mi hanno detto che la loro quota di export è del 55%. Questo ci fa gioire per un verso e ci fa lavorare per un altro verso. Ci fa gioire perché vuol dire che abbiamo successo a livello internazionale. Ci fa lavorare a trovare le modalità, per altro verso, ci fa lavorare a trovare le modalità per sostenere la domanda interna. Cioè occorre che riprendano i consumi interni al paese per sostenere il mercato interno, in modo tale che la quota di export resti sempre alta e che al tempo stesso però vi sia un'Italia che consumi. Noi abbiamo proprio ieri, durante il voto sul decreto fiscale, rilanciato alcune iniziative che possono sostenere i consumi e la domanda interna, e questa sarà la nostra linea politica per il futuro. Basta tasse è la nostra prima direttrice di politica economica. In questa logica si pone il nostro no fermo all'aumento dell'IVA a settembre. Attendiamo i risultati della cosiddetta spending review, cioè della revisione della spesa, che consentirà di individuare con precisione quelli che possono essere definiti costi inutili dell'amministrazione o sprechi. Dal risparmio che si riuscirà ad avere dal taglio agli sprechi pubblici, dal taglio alla spesa pubblica inutile, noi crediamo che si debba finanziare il no all'IVA. L'IVA non va aumentata. Aggiungo che anche in riferimento ad altre modalità di tassazione, cioè all'IMU, noi ieri abbiamo ottenuto, dopo avere ottenuto il risultato della rateizzazione dell'IMU, l'impegno del governo a provare ad individuare risorse che evitino che anche nel 2013 ci sia la stessa botta sulla casa e dunque che l'IMU possa essere una tantum solo per quest'anno.